Hey. Isso aí. Paulo. Não, só você se falando. Ah, ok. Dai, sono venuto fuori qualcosa. Sì, ci aggiorniamo. Ci sei? Cosa facciamo? Sospendiamo? Thank you. Thank you. sei ancora? Ok. Ah, bello, bello. Lo conosci il batterista, il bassista? Bravo però. Non ci ha seguito, dai. Ma come abbiamo fatto dei momenti veramente... Eh? Io devo andare adesso però. Un attimo, devo alzarmi presto. Mi senti? Ah, si sente, aspetta, spengo. Ma tanto è spagnolo. Saludos. È possibile cambiare the loop?